Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di economia, parliamo di politica industriale. Lo facciamo con Franco De Benedetti. Buonasera De Benedetti. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Franco De Benedetti, imprenditore per lungo tempo, senatore per 3 legislature, attualmente presidente dell'Istituto Bruno Leoni, la think tank liberale, che fa tante cose positive per portare avanti l'idea liberale. Ecco, Franco De Benedetti ha scritto un libro, Scegliere i vincitori, salvare i perdenti, l'insana idea della politica industriale. È un libro edito da Marsilio in cui si racconta appunto la storia quasi parallela tra la vita di De Benedetti, iniziata nel 1933, va dato atto a De Benedetti di essere ancora così presente nella realtà economica e infatti proprio all'inizio del libro dice siamo quasi coetanei, la politica industriale nata nel 1930 e io che sono nato nel 1933, ma lui dice io sono ancora vivo e sveglio, faccio 500 metri all'ora in salita in montagna, la politica industriale invece dobbiamo solo recitare il De Profundis. Ecco, ho fatto un riassunto abbastanza veloce. Perché parlare di politica industriale oggi, De Benedetti? Perché la politica industriale non è certamente più quella che è stata prima della prima guerra mondiale, soprattutto dopo la seconda guerra, in particolare negli anni 70 e 80. Non è più quella, però vive e fa danni ancora tra noi, si potrebbe dire parafrasando la nota frase, perché è ancora presente. In fondo l'idea base del libro è che la politica industriale può essere una chiave di lettura della storia economica italiana per oltre il termine che ha detto lei prima, che praticamente per tutto il Novecento e ancora adesso. Il scopo del libro è quello di appunto di usare l'ideologia della politica, perché è stata un'ideologia, l'ideologia della politica industriale per leggere la storia, praticamente la storia economica dell'Italia. Ecco, però è iniziata negli anni 30, quando la politica industriale è stata necessaria, si trattava di salvare le banche, si trattava di salvare i grandi complessi industriali, lo Stato è intervenuto con la creazione dell'IRI, è intervenuto portando avanti appunto dei salvataggi che poi hanno messo le basi di quella che è stata nel secondo dopoguerra la rinascita, il miracolo economico. Quindi c'è stato un periodo in cui l'intervento dello Stato è stato come persona, come entità, è stato come participio passato necessario se non indispensabile negli anni 30. Dunque, la crisi degli anni 30 ha colpito tutto il mondo, tutto il mondo sviluppato, tutto il mondo industriale, dall'America all'Inghilterra, alla Germania, tutto e l'Italia. Però solo in Italia ha dato luogo alla creazione di una ente, e cioè l'IRI, che non è né nell'amministrazione né nel privato. Quindi solo in Italia c'è stata la costruzione di quella dell'IRI, che poi dopo la guerra anche lì si sviluppò e si allargò a altri settori, diventando il settore delle partecipazioni statali, diventando il paese con il più grosso intervento pubblico dello Stato che nell'economia di tutto il mondo occidentale. Quindi c'è una specificità italiana di questo, perché altri paesi l'hanno fatto, tutti i paesi hanno dovuto salvare le loro industrie e le loro banche, più o meno, noi in misura maggiore degli altri, ma perché addirittura la crisi del 30 minacciava addirittura di far fallire la Banca d'Italia. Si racconta che proprio nel 1933, quando il ministro delle finanze Jung porta a Mussolini da firmare il decreto per la creazione, l'IRI era già nata prima nel 30, ma è nel 33 che diventa ente di Stato, ente pubblico, e Mussolini guarda e dice: quando ci libereremo di questo convalescenziario? Ecco, ce ne libereremo alla fine con troppo tardi, sicuramente. E poi, Troppo tardi, perché le partecipazioni statali hanno segnato, come si dice nel libro, a lungo la realtà italiana, con tutte le implicazioni politiche malsane che ci sono state. Ma io farei un salto di qualità, dato che il tempo poi è limitato, e parliamo anche della politica industriale al tempo di Renzi, come dice un capitolo di questo libro. Adesso che senso ha la politica industriale, Franco De Benedetti? La politica industriale continua a essere una grande tentazione. Oggi più nessuno pensa alla politica industriale nella dimensione macro, quale è stata quella del secolo scorso. Però come intervento micro questo è ancora largamente diffuso. Perfino il presidente Boccia, nel suo primo discorso da presidente di Confindustria, abbiamo bisogno di stelle polari. C'è da chiedersi se veramente abbiamo bisogno di stelle polari, perché vede, quando si dice che non bisogna dimenticare, quando si racconta la storia anche dei successi che ha avuto la politica industriale, quello che gli economisti chiamano costo-opportunità, cioè fare quelle cose ha impedito di farne delle altre. Fare quelle cose da parte dello Stato ha impedito di farne delle altre da parte di privati. Prendere oggi la politica industriale viene cercata non tanto o non solo come intervento diretto, anche se c'è anche quello, basta vedere Poste, Ferrovie e vabbè, poi ne diciamo degli altri, ma soprattutto come scegliere degli indirizzi, dare degli indirizzi. Ora, dare degli indirizzi presuppone sempre escluderne degli altri. Quando la politica industriale entra direttamente nella determinazione di fatti economici, comporta sempre delle distorsioni, cioè dà favore a certe cose e necessariamente ne impedisce delle altre. La politica economica dovrebbe essere il quanto meno distorsivo possibile delle scelte del mercato. Ecco, quindi però lo Stato dovrebbe fare delle regole che permettano appunto ai privati di operare. Ci sono delle regole però che possono consentire questa attività dei privati solo se ci sono anche delle opportunità operative. Pensiamo alle reti a banda larga, per esempio, di cui si parla tanto. C'è un capitolo di questo libro di questo problema. Basta che lo Stato dia le regole perché i privati operano in infrastrutture molto costose e a rendimenti probabilmente molto in là negli anni, oppure è ancora necessario nelle infrastrutture che ci sia un intervento diretto dello Stato, Franco De Benedetti? Ma dunque, prima di tutto bisognerebbe chiedersi perché noi abbiamo un relativo ritardo nella banda larga, e questo dipende proprio dal fatto che c'era un monopolio di Stato, il quale ha impedito di avere quello che hanno tutti gli altri paesi d'Europa con i quali ci confrontiamo, e cioè la televisione via cavo. La televisione via cavo è stata proibita da una legge dello Stato, perché il monopolio STET si è fatto fare una legge che lo impedisse. Noi oggi ancora scontiamo questo ritardo, questo è stato. Quindi quando ci paragoniamo con gli altri, bisognerebbe ricordare che gli altri hanno la televisione via cavo, che è stato un elemento, anche un incentivo anche alla concorrenza, e continua a essere un incentivo alla concorrenza. Quindi le cose vanno viste bene, ecco. E anche oggi, tant'è vero che voglio dire, c'è TIM, un programma, è il più grande investitore di uno dei più grandi programmi di investimenti dei prossimi anni, è proprio quello di un'azienda privata come la TIM, che ha un programma di banda larga. Qui il governo, secondo me facendo un errore, sceglie una tecnologia. Ora, per quale motivo scegliere una tecnologia? Per quale motivo, con quali elementi? Quali elementi ha un governo per scegliere una tecnologia piuttosto che un'altra? Ecco, quindi questo, anche, proprio il tema della banda larga è un esempio di, secondo me, di modi con cui non si dovrebbe fare una politica industriale che bisognerebbe evitare. Ecco, quindi questo capitolo finale del libro, Fine della politica industriale, è più un auspicio che una presa d'atto della realtà. Sì, è un auspicio nel senso che appunto nessuno più pensa agli interventi di quelli che ci sono stati negli anni dal 50 all'80, ecco, quello non lo pensa più nessuno. Però rimane questo. Ecco, quindi non è tanto al governo che bisognerebbe pensare, perché il governo poi ovviamente si c'è il diritto dovere di analisi e di critica, ma soprattutto quello su cui c'è interesse è perché la gente lo voglia. Per quale motivo c'è la gente dice ma ci diano delle indicazioni? Ecco, questo secondo me è la vera vera cosa a cui pensare. Cioè la vera politica industriale, quella giusta, quella politica per l'industria, deve guardare gli ostacoli, le ragioni per cui non le cose da. Certo. Non le cose da fare, ma le ragioni per cui non si fanno, per cui certe cose non avvengono, che sono indubbiamente degli ostacoli, possono essere rappresentati evidentemente da comportamenti anticoncorrenziali da parte di altre aziende, ma possono essere rappresentati da tutti gli ostacoli. Basta aprire i giornali, voi ne scrivete quasi quotidianamente degli ostacoli, certo, che ci sono, non so, per esempio per gli start-up, mi dicevano di aziende che vincono degli incentivi statali e poi questi non vengono erogati, ci hanno 3 anni per prendere i soldi e come fanno a vivere in quei 3 anni che non hanno i soldi? Queste sono veramente le cose. E questa la realtà, certo, anche un po' disarmante con cui abbiamo di fronte, uno Stato che sbaglia a fare le regole e anche quando fa delle regole che possono essere positive poi le applica male. Possiamo concludere qui, Franco De Benedetti. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie molto a lei e agli ascoltatori per la loro pazienza. Grazie di essere stato con noi. Abbiamo parlato di politica industriale, potevamo parlarne ancora più a lungo, ma il tempo è tiranno. Comunque possiamo anche solo citare la conclusione del libro dicendo appunto che il mercato può essere la soluzione dei problemi, dal mercato può venire la soddisfazione dei bisogni. In questa fiducia del mercato, che peraltro è largamente condivisa, si può avere anche leggendo questo libro, con le distorsioni del mercato che ci sono state e con i danni che hanno provocato. Ricordo il titolo: Scegliere i vincitori, salvare i perdenti, l'insana idea della politica industriale, di Franco De Benedetti, edito da Marsilio, 336 pagine per 18 euro. Grazie anche a Luca Cremonese in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.